continuiamo a sentire richieste o comunque vuoi una conferenza, vuoi un comunicato stampa, vuoi diverso tipo di pressione differente dal governo degli Stati Uniti, che cerca di spacciare quello che per lui sono scarti dell'agricoltura nazionale come aiuti ai paesi in via di sviluppo, in particolare verso l'Africa, quando è chiarissimo che gli stessi paesi africani non vogliono questo tipo di organismi, perché rischiano di essere diciamo di creare un nuovo problema, un problema in più rispetto invece che risolvere uno esistente ben grave, che è appunto la fame, comunque la sofferenza della fame. Quando parliamo di OGM dobbiamo sempre avere presente che stiamo avendo a che fare con una tecnologia imprecisa e che non siamo in grado di controllare, e in un paese già con problemi economici dal punto di vista anche della produzione di cibo, andare a immettere qualcosa che è stato almeno è stato tentato di standardizzare per un tipo di agricoltura ben particolare fondata sull'uso di sostanze chimiche, comunque di erbicidi, direi che è una contrarietà a monte. E non tutto questo, diciamo che è sempre condito anche dalla diatriba che si è creata in sede WTO con la denuncia fatta dagli Stati Uniti verso l'Unione Europea. Stati Uniti che sembrano sempre più terrorizzati rispetto a qualsiasi tipo di normativa e legislazione in merito di OGM. La sensazione che si ha è che il governo statunitense, che è un po', diciamo così, fa da spalla istituzionale l'industria, la grossa industria nordamericana del biotech, ha il terrore che una volta informato adeguatamente il consumatore si trova completamente tutti i canali chiusi per quanto riguarda la vendita di questi organismi. Quindi questo è un po' il leitmotiv che continua a ritornare in tutta la questione OGM in generale. Ricordiamoci sempre che stiamo parlando di organismi che vengono, nei quali vengono inseriti geni appartenenti a specie differenti, che vengono messi randomicamente nel DNA della pianta ospite, e possiamo solo a posteriori cercare di capire quali sono le modifiche.